allora non l'ho scelto io di vivere sta condizione. È il destino che lo ha fatto e mi ha posto in sta situazione. Mi ha compresso il tempo che per me ora è una saetta. A me è stata assegnata una vita di fretta. Ho ancora un'altra ora e speriamo che scorra liscia. Non sai quanto è il tempo che un cazzo di aneurisma ti lascia. Per ora sto tranquillo ancora a regolare il battito. Poco tempo da vivere ed è solo tempo in prestito. E allora corro, corro per gustare ogni secondo. Per sentire la vita, per succhiarla fino in fondo. E anche se ho poco tempo lo sai, puoi star sicuro. Io lo userò a dovere per poi sfondarti il culo. Senti come scorre, questo è il flusso che mi assilla. Che mi tiene sulle spine come tra Caridi e Scilla. Non so se ci sarò domani e neanche ciò che mi aspetta. So che non volevo una vita da vivere di fretta. Vivo la mia vita di fretta perché non so domani che cos'è che mi aspetta. Per questo amico cerco del chiarore di fretta. Domani questa luce potrebbe essere spenta. Già, vivo ogni mio giorno di corsa. La prossima potrebbe essere la mia ultima mossa. In questa vita che noi percorriamo di fretta e in cui ben poche volte abbiamo ciò che ci spetta. Depresse paranoico, spesso su me stesso vomito. Paranoie, foglie che mi causano il volta stomaco. Di odio e rabbia carico, quasi a un livello cronico. A stento mi addormento, ma poi gli incubi e mi agito. Mi sveglio con la testa in balia di strani pensieri. Di tutti gli scleri che ho affrontato fino a ieri. E studio soluzioni veloci perché il tempo avanza inesorabile. Poi ti abbandona a tradimento. A volte vado a stento, ma presto ripenso che non ho tempo per fiattare. Rischio quasi uno scompenso. E dopo aver compiuto ogni sforzo enorme ed intenso, non faccio altro che sperare che tutta sta fatica abbia avuto un senso. Ne sono sicuro, uno scopo c'è a tenere duro. Far passare un altro giorno con ancora intatto il culo. In questo mondo troppo attivo, ma sei negativo. Oggi potrebbe essere l'ultimo giorno in cui vivo. Perciò vivo la mia vita di fretta, perché non so domani che cosa che mi aspetta. Per questo amico cerco del chiarore di fretta. Domani questa luce potrebbe essere spenta. Già, vivo ogni mio giorno di corsa. La prossima potrebbe essere la mia ultima mossa. In questa vita che noi percorriamo in fretta, in cui ben poche volte abbiamo ciò che ci spetta.